Ce l'abbiamo fatta anche questa settimana, mio caro amico Cischi. Ce l'abbiamo fatta, caro amico Franz. 59esima puntata di Radio Bam. E non sentirle. Sono le 21.01 all'incirca. Che bello, quando arriva il martedì, Franz, non sto nella pelle. E questo è martedì 13 ottobre. Guarda, mi annoio nel weekend perché sono tutto proiettato al martedì, Franz. Mi annoio. È vero. E ce l'abbiamo fatta anche questa sera, nonostante insomma... Nonostante tutto, nonostante Galliani, nonostante il Lodo Alfano, tutto. Esatto. Radio BAM, la trasmissione curata dalla fanzine BAM Magazine, che si trovate su www.bam-magazine.it o myspace.com/BAM Magazine, tutto attaccato. Io sono Franz, lui è Cischi. Yes, I am. Per offrirvi il meglio del... Il meglio del rock, del roll, ma è una soprattutto del... del roll, ovviamente, è una trasmissione più rock, più roll, Franz. Beh, io metto... Sciogliamo questo nodo. Io metto roll. Qual è la componente più importante tra rock e roll? Caro Franz, sfondi una porta aperta. Ma soprattutto, qual è la parte del corpo più roll? Devo notare che, a parte di rock and roll, nella regia automatica che ho trovato prima, la canzone che stavo andando era Bible of the Devil, e non sto scherzando. Attenzione, attenzione. Loro sì che erano roll, eh. Cischi, che giorno è oggi? Oggi è martedì. So che tu vuoi trarmi in inganno. Io mi limiterò a dire che... Perché dobbiamo essere onesti con i nostri ascoltatori, e questa no, è una puntata... No, Franz, taglia. Registrata. Detto. Voi la starete ascoltando probabilmente martedì 13 o martedì 20, probabilmente. E infatti non sappiamo ancora che ne è stato del Lodo Alfano. Siamo qua che lo sapremo. Cioè, mentre voi sentite questa cosa, lo saprete. Ma voi non smettete di ascoltarci, perché nonostante questo non smettete mai. In registrata ogni martedì dalle 21 alle 22 trovate Radio Bam con tanta simpatia. È comunque una trasmissione sempre attuale, quindi anche se è registrata è comunque avanti di qualsiasi altra trasmissione, sempre attuale, sempre sulla notizia, ok, e sempre roll. Probabilmente mentre stiamo ascoltando io sono tra le strade della California a farmi un bel tour con i Mojomatics. Tu invece dove sarai il 13, cioè dove sei adesso, Cischi? Probabilmente io sarò stavo pensando un posto più figo per smerdarti, non mi è venuto in mente, caro Franz. Però, comunque, se tu sei a Brescia, cosa che io non potrò fare perché sarò probabilmente disperso nella California. Io sarò a Brescia. Questa settimana, il venerdì, c'è un bellissimo concerto punk rock in quel del Latte Più di Brescia. Ci saranno i Dopamines, ci saranno i Riccobellis, il nuovo progetto di Simone Riccobelli, appunto il suo fratello, di Punk Rock City, ma ci sarà soprattutto Capy the Band. Sai chi è Capy the Band? The man himself. The man himself. E andiamo a sentircelo adesso. Cosa dici? Viva Capy. Say goodbye to 99.6 Radio Bam. Cischi, chi erano questi? I Rentals. Ma... o Rentals o Rentual? Lil Grizzly. Suonavano solo familiari. Familiari, certo, perché sono il progetto parallelo di dillo tu, Franz. Ovvero di non so chi, dei Fevers, quello che cantava nei Fevers e suonava il basso, come senti appunto dalla voce. So che tu sei gran fan dei Fevers. Gran fan dei Fevers, caro. Ma non dei Rentals. Ma non dei Rentals. Esatto, e quindi non è questo bel 7 pollici. Come lo descriveresti? Perché non lo vedono la confezione degli altri. Sembra la confezione di una caramella di una volta, di tanti anni fa. Cazzo stai dicendo? Sì, sì, sì. No. La confezione di una caramella, quella tutta zuccherosa che si apriva. È vero. Ma anche una busta da lettere, forse. E è più semplicemente una busta da lettere. Sì. Sono i Rentals con Little Green Hat, che tradurresti come... Piccolo verde cappello. Sì, prima di loro siamo andati a ascoltarci i... Prima di loro gli Ex Dispenser. Con? Molto buoni. Molto buoni. It's your funeral minion. Dal CD tratto dalla... Dalla Alien Snatch Records. Ok, e si chiama Winchester Mystery House. Ti piacciono i Ex Dispenser? Guarda, non li ho mai seguiti molto, ma il pezzo era figo, per cui magari vedrò di farlo. Non lo so, Frank. Austin, Texas, per cui e da seguire. Tu stai sentendo questa trasmissione registrata da solo in casetta. Io sarò là. Perché a Austin, questa... Texas. Esatto. Non a vedere gli Ex Dispenser, ma comunque sì, che fa di te un figlio però di Troia. Però tu puoi andare questo venerdì a vedere Kepi Guli, che suona Latte più. Ricordiamolo. Che abbiamo sentito all'inizio con il pezzo Fortune Teller, tratto dal suo ultimo album. Vediamo se puoi leggere senza leggerlo. Non lo so. Un titolo a caso. Sentence vedo, però. Esatto, Life Sentence. Che appunto presenterà in quel il suo tour italiano, che passerà appunto venerdì dal Lio Bar di Brescia insieme a Ricco Belli, Saint Dopamines, Kepi Ghoulies Day. Con la consueta giovialità dei Groovy Ghoulies. Esatto. E che altro? Le so tutte. Allora, abbiamo ripetuto, questa è registrata, quindi settimana scorsa teoricamente c'è stato il concerto dei Reapers, quel di Ospitaletto. Com'è stato, Cischi? È stato figo, è stato auto controlla. Sì, sì, sì. Gente, poi lì, felice. Il barista sempre felice, sempre più ciccione. Ma ha detto che Gigi Della Rigia poi aveva fatto qualcosa di pazzorello. Sì, a un certo punto si aggirava nudo. È stato bello. L'ho registrato e messo su YouTube. Poi è successo un casino e adesso vedremo un po' come si evolve la situazione. Comunque il concerto è stato figo. Perfetto. Abbiamo anche un ospite stasera con noi. Abbiamo un ospite che ci ha portato da bere. Ecco, tre cose. Non c'è un distributore di birra qui in radio. Ok. Il cavatappi non è vicino al frigo, ma è nel bagno. Dovrai spiegarmi un giorno o l'altro perché. Va bene. E sono arrivate, sì, un po' di birra finalmente. Quindi, okay. Quindi giriamo tutte queste lamentele alla direzione che ci caccerà presto da qua. Giriamole. Mentre l'inviato della birra si chiama... Fight the power. L'inviato è lì con un ciuffo vergognoso ed è Johnny Boy. Johnny Boy, da Bergamo. Di ciao. Ormai stiamo con... Ciao a tutti ragazzi, sono Johnny Boy, ciao. Perfetto. Ci caccerà. È un po' confuso sessualmente, ma è simpatico. Perché nessuno ha aperto una birra a me per ora? Perché anch'io ho dovuto aprirmi la mia, E qui ognuno per sé, Dio con tutti. Di tutti questi po' di CD che abbiamo qua, che ci sono arrivati ultimamente, cosa hai selezionato per noi questa settimana? Cosa ho selezionato per voi questa settimana? Cosa hai ascoltato accuratamente? Hai deciso questo è il pezzo da sentire da noi perché mi piace, è un bel pezzo scritto bene mentre mi pongono una Bex da 66. Guarda, io a costo di suonare un po' scontato, il This is America lo andrei a ascoltare prima o peccato poi. Peccato che mi hai detto che ascoltavamo un'altra cosa e quindi ho preparato un'altra cosa. e ti casino così? Ah no, certo, Friday Night Kill Saturday Fun, questo titolo che è come sempre spassoso sostanzialmente. The Yeapers. Okay. Chi non lo sa? The same. I tried each one, but they all turned out the same. cosa dici di questi Echoes? Ma me li ricordavo diversi, guarda, sono migliorati. Grazie, che songwriting! Siamo andati ad ascoltare un pezzo di Nerves, ma non un pezzo dei Nerves qualsiasi, ma bensì quello che abbiamo sentito diverse settimane fa, che ha scelto Luca Fazzi. Lo sentirei over and over again. Ascolta, cosa andiamo a sentirci degli Echoes? Friday Night Kill Saturday Fan. Ah, il venerdì, no. Il venerdì notte ha fottuto il fan del sabato. Ok, i fan magari. Il nostro esperto del venerdì notte. Venerdì notte o sabato notte? Una risposta pronta, John. Venerdì notte, venerdì notte. Saturday fun. You should have seen us sitting at a morning after in the backseat of the van. What a disaster. We were heading to the south to play a punk rock show. Let me rephrase that. We were heading south to play some stupid party for a bunch of trendy kids that looked retarded. They didn't like us much. Saturday fun. Yeah, we all swore we'd never drink again. We all gave up smoking that day. We all agreed we needed change and harmony in life. No one deserves to live this way. No one deserves to live this way. Friday night killed Saturday. Friday night killed Saturday. Friday night killed Saturday fun. Yes, it's true, I'm 35 years older than you, but that doesn't mean we can't get it on. Doesn't mean we can't get it on. I can see you looking. c'è emozione, c'è allegria, c'è amore dagli studi di Radio Onda d'Urto. Questa è Radio Bam e Franz mi fa iniziare dicendomelo un secondo prima. Figlio di Troia. E questa era? This is America, una canzone che mi ha ricordato a un certo punto gli Anti-Sin per le tematiche affrontate. Patriottiche, qualche riferimento a opossum, fucili e pistole e c'eravamo. Non basta mai. Mai. Mi piacerebbe essere americano. Mi piacerebbe avere gli opossum che scorrazzano. Se è questo quello che intendevi con la tua domanda, era questo che volevi chiedermi? Che scorrazzano, e poi tu ti regoli di conseguenza. Questo era Paul Collins Beat con This Is America, tratto dal loro ultimo 7 pollici split con i Radio Days. Belli furono i giorni in cui Paul Collins era qua a suonarcele, mentre invece abbiamo qua Johnny Boy oggi. Bisogna essere grati di quello che il Signore ci dà giorno per giorno. Esatto. Come mai questa cosa? Split tra Paul Collins e Radio Days. Beh, estremamente figo, sì. Entrambe le band sono fighe, abbiamo avuto modo di vederlo martedì scorso. Gigi dietro di te non è molto... scuote la testa, Gigi, scuote la testa. Polemico, Gigi. Vedremo poi ama, si può ama la polemica. Perché ha portato un disco. Esatto, Gigi. Ha portato un disco che ho qui sotto mano e poi vedremo chi riderà a quel punto. Prima di Paul Collins Beat, cosa abbiamo sentito? Avevamo Yes, I'm 35 years old than you, un titolo che veramente è bellissimo. Sono 35 anni più vecchio di te e che è tutto sommato una cosa che a volte mi trovo a pensare in università. Non in questi termini, ma tutto sommato. Più o meno. Più o meno mi capita. Ed è davvero tanto bello, ahimè. Vedo che ti ritrovi un po' tutte le canzoni che c'è sempre, esatto. Mentre le canzoni prima che siamo andati a ascoltarci prima erano... Friday Night Kill Saturday Fun. Anche quello ti ritrovi. Che non era proprio una scelta. Però abbiamo però il poll istantaneo, che da quest'anno abbiamo il poll istantaneo, giusto, sì. Franz? Ha premiato il Friday rispetto al Saturday. Per cui non è poi vero che Friday Night Kill Saturday. Logicamente, questo cosa ci dice? Sociologicamente, cosa ci dice? Una canzone degli Hapers. Stai chiedendomi dopo, questo? Capisci, Cischi? Che sempre c'è il Saturday Night, è un meglio po' il prima che il dopo, forse è meglio serata, prima, però intanto ti diverti il sabato e poi il sabato è una e il venerdì invece poi il sabato è una in bella. Wayne's World, cioè Fusi di Testa, c'è un discorso simile nel 2 c'è Wayne Campbell alias Mike Myers che lo dice a Jim Morrison, e questo riferimento pop di un certo spessore, esatto. Sì. Vabbè, hai già scelto cosa si va a ascoltare poi? Non ancora. Scelgo, potresti dirci qual è l'ultimo film che sei andato a vedere? L'ultimo film che sono andato a vedere. Mi metti in difficoltà, caro mio. Okay, sai che io non amo... Esatto. Perché Cischi, per chi non lo conoscesse, è una della nuova generazione che non va mai al cinema, ma si scarica comodo al cinema da vedere in DVX con la copertina e quant'altro. Sì, non mi guardo il film sfocato, col doppiaggio in italiano terribile, col ciccione in parte che mangia le patatine, quello che non si è lavato dietro e quello che ride con gli altri suoi amici di fronte. Sì, mi perdo tutte queste gioie del cinema. Qual sì. è l'ultimo DVX che hai visto? L'ultimo DVX che ho visto non mi ricordo più, mi ricordo che è stato abbastanza deludente. Cos'è che è stato? Boh, non me lo ricordo. Dopo te lo dico però, e ne parliamo un po'. Va bene. Allora, comunque, tu ti lamenti sempre che andiamo a sentirci. E comunque passiamo un po' al garage. Passiamo al garage, sì, sì. No. Decisamente omosessuali. Non so se hai visto, ma c'erano, non so se tu c'eri prima quando sono arrivato, c'erano le prove della nuova trasmissione gay e insomma queer che c'è qua su Radio Nodo, che salutiamo, che facevano le prove, insomma. E com'è stato? È simpatico. Ti hanno scelto come consulente, immagino. Vedi come sei omofobico e cose. Sì, io sì. Vabbè. Come aperto è Greg Cartwright? Aperto che ha appena pubblicato un LP acustico live registrato a Milwaukee, live at Circle A, edito dalla Dusty Medical Records. E tu non l'hai ancora sentito, quindi non l'ho ancora andiamo sentito. A sentircelo assieme. Facciamolo. I don't care. Lui è Greg Cartwright. When you try to tell a lie, you look down into your shoes. I could learn to read your face, but I've already heard the news. These people love to talk when it's sure to bring you down. But I don't care if you ever come back now. just like a chain reaction, but I've yet to come undone. Once the king of your distraction, now I have to spoil the fun. And your friends are all fighting over who will take my crown. But I don't care if you ever come back now. Well, you need a guy without two eyes to see the things you do. And words of wisdom to seal his lips, or he might make you blue. Blue. Told me repeatedly that you had age beyond your year, but you don't have to scream your mantra standing so close to my ear. And that girl on my couch, she just helped me figure out that I don't care if you ever come back now. No, I don't care if you ever come back now. No, I don't care if you ever come back now. Thank you. .6 in diretta o quasi su Radio Onda d'Urto, Radio Bam, i vostri simpatici DJ ormai non più giovani, Franz e Cischi. Qui con noi Johnny Boy, il nostro inviato dalla Sardegna Geppo, e Gigi della Regia Pop Records, che comunque non vuole parlare ma si beve la sua Franz Skyner, se non vedo male da qua. Abbiamo comunque, facciamo pienone ultimamente nei nostri studi. Facciamo il pieno, facciamo sold out, Franz. Allora, abbiamo sentito un gruppo che a Gigi sicuramente piace, ovvero gli Smith Westerns con Give Me Some Time, stato da loro. Io so che li ama. E primo LP su Ozark Records. Gigi, vieni qua. Fai venire. Come qua. Here. Gigi, vieni. Dice di sì, ma non viene. Vabbè, Gigi, cosa ne pensi di questo ultimo? Come mai? Parlo io per Gigi. Perché all'inizio ho pubblicato un paio di sette pollici sempre su Ozark. avevano un suono abbastanza difficile, adesso sono andati un po' al suono più poppettoso che mi abbiamo sentito di questo pezzo. Cosa ne pensa Gigi? Ci scrive. Gigi non è molto contento, perché di base Gigi non è contento di niente, non è d'accordo con nessuna scelta artistica e musicale, e quindi ancor meno se si vira al pop e allo vero. Zuccheroso, quindi insomma è decisamente non contento della cosa. Gigi, tu consiglieresti questo LP degli Smith West? Assolutamente no. Ok, è una merda. È una merda, come il 99% delle cose che vengono registrate. E non... quindi anche questo è una merda. Parlando di registrazione, cosa ha detto Gigi? Cosa ne pensa Gigi Greg Cartwright del suo live acustico? Ha detto una cosa che sostanzialmente mi trovo d'accordo, che evidentemente non ha ancora imparato a registrare. È vero, perché il live acustico è più figo in studio. Perché il live acustico è più figo. E siamo due contro uno. A pensarlo. Poi non si è esposto neanche Geppo. Ma sono sicuro che dà ragione a noi. Ok. Allora, siamo arrivati al punto in cui Gigi ci ha portato un disco e ha scelto una canzone. Quindi adesso vedremo chi tra te e lui aveva ragione. Io ero lui. Io sono lui. Talvolta. Quando non vuol parlare. Quindi non confondermi. Ok. Va bene. Cosa ha scelto? Electric Room? No. Into the Void? Sì. No, nemmeno quella. Into the Void? No. E comunque ha scelto i VD, che hanno pubblicato il loro primo album sulla Criminal IQ Records. Ha scelto il primo pezzo, ha detto che il primo pezzo è buono, vedo che dura 5 minuti e 56. Troppo. Into the Void. Vabbè. Cambia. Allora, andiamo a sentirci Into the Void. 2-4 minuti e 56, cioè abbiamo salvato 30 secondi. Allora no, torna l'altro, dai. Vabbè, andiamo a sentirci i VD. Scelta e richiesta di questa settimana da Gigi della Regia Pop Records. Loro sono i VD qui su Radio Onda d'Urto. Se avete la mentele, telefonate non qua in studio, ma direttamente a casa sua. 99.6 Radio Andaduto, stiamo ascoltando i VD. Manca ancora circa 1 minuto e 44 alla fine del pezzo e possiamo accettare comunque delle conclusioni. È un bel pezzo figo, Franz. Dove vorresti vedere la VD? Al Bloom, ovviamente, al Bloom di Mezzago, che è un posto che ha sempre regalato emozioni. Sentenzi riguardo a questo uomo dei VD. Sentenzi, ok. Ok. I love you, ok. Sentenzi, citando i Guitar Wolf. Suona il mio amico, insomma, che suonava anche nel moto, e che tra l'altro è vedi allora. Il tecnico delle luci, Nico e Leonard Cohen. Vedi che. Continuiamo a sentire perché. Continuiamo loro. Sarebbe bello drogarsi ascoltando ste roba qua, però poi non ci abbiamo più l'età. Esatto. Anche noi siamo 35 years old. Continuiamo a sentire 45 secondi finali di TV. Sì, sì, sì. Bye. Let Me Go dei Mannequins. Figo, eh? È stato figo? Grazie. La tua vasta collezione di... È un piacere, Franz, è un piacere contribuire alla diffusione del rock and roll. Qua i 7 pollici sulla Plastic Idol Records, che tra l'altro mi è stato dato da Gigi Della Rip, che è qua. Gigi Della Rip, Chabov? Vasta distribuzione di dischi. Vasto, lui è vasto, è una persona vasta, tutto sommato. Ci ha parlato poi... Sei ai? Oh, poi sì, c'è, è vero, c'è. A 2 centimetri di distanza dalla sua bocca si è sentito qualcosa, però vabbè. No, tra l'altro diciamolo che Richard Pop Records, diciamolo, un sacco di dischi come questo, come quello dei Mannequins che abbiamo appena sentito. Supportiamo Richard Pop Records, per carità di Dio, supportiamola Richard Pop Records, credo, però insomma, Gigi facendo di sì, quindi sì. Gigi che ha promesso che mi passa tanta roba dei viti. Tu che sei fan della Richard Pop Records, io qual sei. È l'ultimo disco della Richard Pop Records? Edito? L'ultimo o il migliore? Due. Guarda, imbarazzo della scelta, alta qualità e lì non sai proprio quale scegliere. Allora, non saprei. Con Mannequins, con Let Me Go, l'hai mai visti Mannequins? Li ho visti una volta, me ne ero scordato in realtà, ma tu mi hai ricordato con un aneddoto divertente, per cui sì. Però vorrei rivederli perché non mi ricordo più quella volta. Vabbè, lì, quindi. Prima di loro cosa abbiamo sentito, Cischi? Prima dei Mannequins abbiamo sentito Jay Retard con Inacoma, se leggo bene la tua scrittura. Perfetto, e prima ancora di loro? E prima di Jay Retard, VD. Che sono un po' diventati gli eroi di questa serata. Di questa puntata, sì, decisamente. Non mai a spegnersi, nonostante si Guitar sia Heroes. Si sia accesa un po'. Si sia accesa verso la fine, sì. Nonostante siamo registrati un triste martedì sera registrato. Però si è accesa con i VD ed è, secondo me, merito di Gigi. Di Gigi, sì. Di Gigi. Glimpses of Another World. Quindi. World. Rinnovate l'appuntamento settimanale. Rinnoviamo l'appuntamento con il martedì, sempre più scoppiettante, sempre più rock, ma soprattutto sempre più roll, giusto Franz? Esattamente. Per cui insomma, se a martedì non avete niente da fare, sappiate che dopo questo appuntamento spumeggiante è un po' una trasmissione radiofonica che ha bevuto la Red Bull, Franz? Esatto. Frizzante. Poi andrà in onda Desert Caravan. Desert Caravan. E dopo ancora Blues Metal Jacket. Non perdeteveli. Sei fan e anche Gigi, mi sembra. Entrambi. Esatto. Questo venerdì, non so se poi andrà in onda altre volte in replica questa puntata, ma non considerate voi che, vabbè, sentite replica, ma questo venerdì, ovvero il 16, c'è KP, The Band, o KP Ghouli, dei Groovy Ghoulies, al Latte Più. Ricordiamolo, altrimenti Ciano della Kandinsky Records 2 si incazza, come dice Gigi. Gigi sarà presente col suo banchetto? No, mi dice. Gigi presenza. Hanno dei cocktail fighi in quel posto, eh? Sì, tipo? Sì. Latte Più? Geppo, sì. Non è avuto convinto a Latte Più. Non è convinto Geppo, perché io mi ricordo che Geppo ha avuto una serata non ok, ma stavolta verrai, sarà ok. Ok. Vero, Geppo? Cosa ti prometti se verrai a KP Good? Cosa non gli prometto, okay. Franz, qua vabbè, sta domanda. Mettiamo un disco in omaggio dei VD che hanno pubblicato no, quello primo è per album. Me. Quello è per me. Per Criminal IQ, il promo se l'hai già chiesto, l'ha già richiesto Cischi qui presente, che ringrazio per essere stato ancora una volta mia spalla. È un piacere, Franz, è un piacere. Gigi ci ricorda che lui questo promo ce l'ha in vinile bianco. Ricordiamo Gigi che ce l'ha in vinile bianco. E quindi... Ed è il secondo album, per Dio. Ah, porca puttana, stronzi noi che non lo sappiamo. Franzo, i VD, Ok. Cioè. Beh, andiamo, secondo la scelta di Gigi dovremmo andarci a sentire Wall of Fire. Secondo la mia scelta. Lato 3, perché noi abbiamo il promo CD, ma è su doppio LP probabilmente. Wall of Fire, lato 3, 7 minuti e 52. Sì! E quindi andiamo a sentircelo, carichi come delle mine, aprendo l'ultima bags qua. 99.3 Last di Bex. Tutto. Ancora settimana prossima dalle 9 alle 10 Radio Bam, la trasmissione più incompetente e più incompe qualcosa o in... Non penso ci siano dubbi a riguardo. Ok, loro sono i... Ma video. Quanta simpatia. Il loro album si chiama Public Mental Health System. Bravo Franz. Wall of Fire. Ciao. Cazzo, bravo.